Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Sono piccoli, anzi piccolissimi, eppure fanno la differenza. Se ce ne accorgiamo, viviamo meglio. Ma il problema è che quasi nessuno se ne rende conto, o meglio, quando non ci sono più, improvvisamente ne avvertiamo la mancanza. Buongiorno a voi da Nicoletta Carbone. So che sono abbastanza enigmatica. Vi chiederete: ma di che cosa sta parlando? Parlo di quei momenti di trascurabile felicità. Quelle piccolissime cose che sono nella nostra vita, danno senso alla nostra vita, ma che noi non notiamo, a meno che all'improvviso vengano a mancare. Ci state pensando? 800 24 00 24. Intanto saluto Alberto Pellai, medico psicoterapeuta, spesso anche life coach di Essere Benessere. Alberto, benvenuto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Il tema di oggi è molto particolare. Apparentemente parliamo di piccole cose, di inezie. In realtà è ciò su cui noi costruiamo il senso di ciò che siamo. È proprio la nostra identità, non è mai dentro a delle macro cose, cioè il nostro progetto di vita è fatto di tutti i piccoli pezzi che ogni giorno costruiscono il puzzle della nostra esistenza. Ed è incredibile vedere come in moltissimi casi la sofferenza delle persone è sempre vincolata alla ricerca di un qualcosa impossibile che non c'è, e rende ciechi invece rispetto all'infinito possibile che abbiamo sempre vicino a noi. Un risveglio con la neve, forse a scuola non si va, tutto è bianco che silenzio, non c'è il traffico in città. Una lotta coi cuscini, una chioccia coi pulcini, una macchina si ferma e finalmente passerò. Sono le piccole cose belle che fanno bella la nostra vita. I bambini in questo senso sono dei veri specialisti. Il loro sguardo sa proprio cogliere l'essenziale che c'è nel piccolo. E cosa succede invece a noi adulti quando perdiamo questo genere di prospettiva? Allora comincio subito ad invitarvi ad intervenire. Raccontateci il vostro momento di piccolo, di grande felicità, quello che quando lo vivete vi fa stare bene. Potete chiamarci all'800 24 00 24, così ci suggerite, magari ci date un'indicazione anche voi con la vostra esperienza di guardarci un pochino più intorno. Potete mandarci come sempre un messaggio al 349 238 6666. Al termine della trasmissione sceglieremo il vostro messaggio arrivato al telefono o via SMS più felice, e in collaborazione con IBS faremo avere una copia del libro dell'ospite che ho in linea con me e che naturalmente non ho scelto a caso. Saluto Francesco Piccolo, il cui libro, che tra l'altro sta avendo uno straordinario successo, un libro bellissimo che vi consiglio, si intitola Momenti di trascurabile felicità, edito da Einaudi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ma io sono molto contenta che a lei sia venuta quest'idea. Bene, sono contento anch'io, è trascurabile questa contentezza, ma essenziale. Come l'è nata l'idea di fare un'antologia di tutti questi piccoli momenti che danno colore, ritmo, vivacità alla nostra quotidianità? Senso, direi. È nata tanto tempo fa, perché in fondo non è un libro scritto per diventare libro, ma è un libro che è diventato tale dopo aver collezionato tantissimi scritti di momenti di trascurabile felicità. Ho cominciato a scriverli così per me, pensando che fosse un modo per riuscire a guardare bene la vita quotidiana, e pian piano questa cosa mi è sembrata che potesse diventare un libro. Quindi lei girava con un piccolo quadernino e annotava, o alla sera faceva un po' un riepilogo di quello che gli era capitato? Voglio capire bene. Ogni tanto, sia che mi capitassero, sia che le guardassi, sia che mi venissero in mente, le appuntavo al computer su un quadernino e poi le riportavo al computer. Insomma, avevo un file, ho un file che è diventato pian piano più grosso, e a un certo punto ho avuto voglia di farlo, ho capito che era un libro, ho capito anche che era un libro che poteva trasmettere un senso di di allegria in qualche modo. È vero. Allora io lo voglio fare ascoltare proprio un breve assaggio del suo libro, ascoltare due dei suoi momenti di trascurabile felicità. Tornare a casa un giorno prima, quando sono fuori da qualche giorno. O anche soltanto riuscire a prendere il treno precedente a quello prenotato. Correre in albergo e buttare la roba nella valigia, precipitarsi verso la stazione e poi saltare sul treno. E quando si muove, pensare di avercela fatta. Una volta sono riuscito a tornare un giorno prima da un viaggio in Sri Lanka. Quelle volte in cui mi sono svegliato in piena notte e ho guardato chi dorme sempre accanto a me, con la complicità delle ore buie, che rendono sopra le righe tutti i sentimenti e le preoccupazioni, le paure, le angosce e il senso profondo della vita. E mi sono chiesto, intanto che osservavo il torace gonfiarsi e sgonfiarsi in modo regolare, chi è questo essere umano a cui sto concedendo il mio amore, le mie giornate, tutti questi anni e anche il mio futuro? È l'essere speciale che mi sembra di aver intuito o è un mostro che mi sembra di temere? E poi mi sono girato dall'altra parte e mi sono rimesso a dormire, sollevato. In linea abbiamo Vito, ci chiama da Bari all'800 24 0024. Vito! Eccomi qui, buongiorno a tutti. Ci regali il suo momento di trascurabile felicità? Ma io sono ottimista intanto per natura, quindi la mattina quando mi sveglio, a differenza per esempio ho molti amici che la vedono sempre grigia la giornata, Io mi alzo bello sereno, guardo fuori, mi basta star fermo un attimo al bar quando sono vicino a un cornetto, un cappuccino e sono... ma mi rendo conto di essere forse uno dei pochi, perché vedo tutta gente molto stressata che mi circonda, delusa della vita, sempre nervosa, e questo fatto mi dà questo senso di voglio dire felicità, di pacatezza, di relax, voglio dire che non facilmente si riscontra al giorno d'oggi, perché li vedo sempre che corrono. E poi c'è un secondo momento, forse il più importante, però devo fare una piccola premessa. Io ho 45 anni, ho trascorso un passato da, una parola grossa, ex playboy, mettiamola un po' così. Ah, Vito! Sicuramente detta così, però diciamo che uno che non si voleva mai legare, uno che faceva una bella vita, lo faccio tutto la vera. E poi mi è arrivato un figlio alcuni anni fa, l'ho presa, devo dire, male all'inizio, adesso quando lo vedo, ecco il mio momento di felicità, quando rientro mi basta uno sguardo, mi sciolgo come neve al sole. Questo parla uno che non ha un forte senso, voglio dire, di essere papà, ecco, questo è... Devo dire una cosa forse da... Senta, le voglio leggere degli altri, molti ascoltatori mi stanno già scrivendo, e lo sguardo, guardare i nostri bambini basta solamente proprio un secondo per così farci respirare un'aria diversa, farci capire che la vita è lì. Egidio mi scrive: il momento che mi ripaga di ogni quotidianità, guardare mia figlia che ciuccia il biberon addormentandosi, il suo viso, i suoi occhi sereni e appagati, la mattina dopo posso ripartire. Allora, grazie a lei Vito per aver chiamato. Grazie, buona giornata a tutti. Alberto. Io credo che quello che stiamo un po' ascoltando è davvero interessante, perché fondamentalmente noi possiamo sopravvivere oppure vivere. Se stiamo sopravvivendo è perché la frenesia che abbiamo fuori di noi ci travolge, noi cerchiamo di assecondarla. Se stiamo vivendo è perché di tutto quello che ci succede in qualche modo possiamo scattare un'istantanea, una fotografia che fermiamo dentro di noi e lì rimane, e quindi comincia a lavorare, a farci produrre significati. Non per niente molti ci portano momenti di impalpabile felicità in attimi, istanti in cui stanno lì a guardare un figlio, che è quella situazione, quella proprio condizione di vita che ti tiene sospeso tra il qui ed ora di in questo momento e il per sempre invece, cioè il senso di ciò che rimarrà dopo di te. Non lo so, credo che dentro a questa riflessione su piccolissime cose che danno senso a tutto ci siano le verità che stiamo cercando con la nostra vita. Francesco, scusa, ti do del tu, perché leggendo il tuo libro, ormai leggendo il tuo libro si diventa un po' intimi, perché molti dei tuoi momenti di trascurabile felicità si condividono, quindi si diventa. Per tanti di noi è quasi difficile trovarli, non perché noi non ci siano, ma perché siamo presi in tutt'altre storie, siamo un po' stressati, andiamo di corsa, magari non diamo la giusta importanza. Tu hai già dato un'indicazione in fondo a noi, ai nostri ascoltatori, appuntarseli, scriverseli, poi fare un file a rileggerli aiuta, ma facciamo una sorta di ABC, ecco, il primo passo, prima di salutarci, regalaci un consiglio. Se tu dovessi rivolgerti ad un ascoltatore in particolare, che cosa gli diresti? Bene, oggi sono le 11:22. No, allora la cosa che direi è appunto quella che sta venendo fuori, cioè di abbassare lo sguardo alle cose che stanno sotto gli occhi, mentre invece di solito si tende sempre a guardare insomma oltre l'orizzonte, mentre invece la vita è fatta per tantissimo tempo delle cose che si hanno sotto gli occhi, e quindi non voglio dire che quelle bastano, ma quelle certo. Sono importanti. Devo anche aggiungere che i momenti di trascurabile felicità del libro e secondo me di ognuno di noi non sono soltanto delle cose tenere e belle come quella di guardare i figli, ma sono anche, come ci sono nel libro, delle meschinità, delle piccole cattiverie, delle trascurabili cattiverie, delle cose rendono le persone vere. E oggi dimmi una cosa che ti è capitata oggi, che hai notato oggi, di un po' insomma, che non hai inserito nel libro perché magari non l'hai vissuto, quando l'hai scritta non te ne rendevi conto. Ma di oggi non so che dire, perché non si può dire che non ho vissuto ancora un momento della scuola felicità, visto che sono venuto qui subito a lavorare. Però per esempio io ho un posto dove vado a lavorare, e aprire la porta per entrare in questo posto isolato dove lavoro ogni mattina, per esempio, è senz'altro un momento di trascurabile felicità. Ti dobbiamo salutare perché so che tu devi riprendere a lavorare. Intanto grazie per essere stato con noi, Francesco. Grazie a voi. Maria Teresa ci chiama da Genova, buongiorno. Buongiorno. Io volevo parlare del mio momento di trascurabile felicità. La mattina mi sveglio molto presto, verso le 5:15, 5:30, e non rinuncio mai, nessuna mattina, ad aprire la porta della camera dei miei figli e passo 5 minuti lì a guardarli. Questa è una cosa che mi carica per tutta la giornata e che mi dà un momento di immensa felicità. Grazie Maria Teresa per averci chiamato. 800 24 00 24. Alberto, un ascoltatore mi scrive: dire che la felicità sta nelle piccole cose a me sembra una banalità. In fondo per alcuni versi non ha tutti i torti, Alberto. No, allora noi siamo fatti di grandi idee, grandi progetti, grandi sogni, grandi possibilità, e questa è la tensione a trasformarci, a diventare persone migliori. Ma l'altra cosa effettivamente che connota chi siamo, la nostra identità, è il quotidiano, e spesso siamo circondati da molte cose che possono riempirci la vita, davvero regalarci il senso e il significato, come ci diceva in modo perfetto la nostra ascoltatrice di Genova, e non ce ne accorgiamo. Cioè il fatto che sono lì a portata di mano, perché è incredibile, anche in una psicoterapia ti accorgi che una persona sente la mancanza di qualcosa che ha sempre avuto nel momento in cui è evaporata come una bolla di sapone. Gli stessi amori che se ne vanno, li rincorriamo, li rimpiangiamo nel momento in cui non ci sono più. Quindi secondo me trovare un approccio un po' filosofico, se vuoi, ma anche psicologico, a saper cogliere il momento non come dimensione di puro piacere, ma come dimensione che attribuisce il significato a ciò che siamo è molto molto importante. Alberto, i bambini abbiamo detto che hanno questa grande sensibilità nel cogliere l'essenziale dalle piccole cose, le abbiamo introdotti con una bella canzone dello Zecchino d'Oro. C'è un momento in cui però un'età un po' difficile, che è quella dell'adolescenza, in cui si perde un po' questa capacità di gioire dalle piccole cose. Agli adolescenti sembra che nulla, no, sia sufficiente a soddisfarli tante volte. Perché quella è proprio la fase della vita dove è obbligatorio guardare quello che non c'è e quindi devi proprio rincorrere l'invisibile. L'adolescenza è probabilmente nel nostro ciclo di vita l'età che aspira maggiormente all'idealità e quindi direi che lì va bene sognare, ecco, non è proprio una fase in cui devi stare nel qui ed ora, quello poi è il traguardo dell'adultità. Quindi un'età sospesa, è giusto che l'adolescente lasci quello che è intorno perché deve andare altrove. Bruno ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Bruno. Allora, io ho 64 anni, sì. Sono sposato molto molto tardi, sì. E ho 4 figlie, la più grande ha 18 anni, poi ho anche 2 gemelli. Sto andando a scuola per prendere uno dei gemelli, un maschio. Sì, sì, la sento. Allora, sto andando a prendere un gemello e prendo il un po' più grande. Sì. Bruno, Bruno è caduto, ma lo riprenderemo, chiediamo alla regia di richiamarlo. Intanto vi invito a chiamare l'800 24 00 24. Alberto, oggi quindi daremo proprio indicazioni per guardare dal primo momento in cui ci alziamo le piccole cose che cambiano la nostra quotidianità e forse aiutare anche le persone che sono vicine a noi a coglierle. Credo che poi questo è proprio un esercizio che si fa in singolo ma anche in collettività, cioè in una famiglia, per esempio coi figli, educarli a vedere ciò che apparentemente è lì ma a loro sembra invisibile, è proprio direi un esercizio educativo che fa bene a tutti. 800 24 00 24, è tempo di sentire i mercati, il meteo e poi torniamo di nuovo insieme tra poco. Essere e benessere. Mi hanno detto che non c'era più posto sulla nave per Creta a fine marzo. Allora ho deciso, rimango, ma tu sei stanco. La canzone che stiamo ascoltando, Torno a casa a piedi, dal titolo al nuovo CD di una cantautrice che ha una sensibilità intensa e minimale, insomma proprio quello che serve a noi oggi. In linea con noi abbiamo Cristina Donà. Cristina, ciao! Buongiorno, spero di esservi utile. Ma senti, tra l'altro, a proposito di piccole cose, è una grande, tu invece stai vivendo un grande successo, perché nella prima settimana di uscita il tuo CD è entrato nella top 10. Come ci si sente? Molto bene, anche perché in un periodo in cui i dischi insomma si vendono sempre meno, infatti si guarda poi anche la classifica di iTunes, però insomma è un risultato notevole, una risposta che io leggo come affettiva nei miei confronti, perché veramente lo sento l'affetto del pubblico sempre di più, mi fa piacere. Bene, senti, ma Torno a casa a piedi è proprio come una scelta concreta di scoperta di tutto ciò che è piccolo, lento, nascosto. Sì, ti ritrovi, vero? È una cosa proprio che vivi quotidianamente, fa parte di te? Assolutamente sì, amo moltissimo camminare, amavo questo gesto quando vivevo in città e poi l'ho approfondito con diciamo dei risvolti diversi da quando mi sono trasferita in montagna, perché poi qua si fanno camminate anche con un altro spirito, però quel Torno a casa a piedi è anche molto legato alla città e alla voglia di rallentare, di guardare le cose con più calma, magari anche da angolazioni diverse. Questo è un esercizio che che mi piace, mi porto dietro dai tempi in cui frequentavo il liceo artistico, dove dovevo come studente ritrarre gli oggetti, così, e mi divertivo a scovare posizioni, di punti di vista nuovi. Io volevo condividere con te, con Alberto Pellai, che abbiamo in linea, uno spunto che mi suggerisce un ascoltatore via SMS, e mi dice: per cogliere i momenti di trascurabile felicità bisogna non avere paura di rimanere soli con se stessi e quindi ascoltarsi. Io trovo che ci sia della verità in questo messaggio. Tante volte ci corriamo, ci riempiamo la testa di suoni, parole, di cose da fare, proprio perché a rallentare ci viene paura, ma se non rallentiamo ci perdiamo una parte della nostra quotidianità che invece potrebbe arricchirci e indicarci una direzione. Alberto. Ma penso proprio che ci sia una chiave di lettura fondamentale sul tema che stai trattando oggi, cioè velocità o lentezza, troppo oppure poco, tanto oppure niente, tutto oppure niente. Ognuno di noi può fare una scelta, ecco, può proprio decidere che cosa vuole, chi è, che cosa sta rincorrendo, e spesso sei portato a guardare quello che non hai, ribadisco, quello che non hai. Io ieri ho ascoltato a lungo il CD di Cristina Donà, che veramente in ogni canzone, fatta di una serie di immagini cesellate prese dalla quotidianità, ognuna di per sé nel suo piccolo può non significare nulla, mentre nel flusso poi narrativo anche di ogni singola canzone diventa l'immagine di una vita che è alla ricerca non dell'impossibile ma del possibile quotidiano, che poi ci fa capire chi siamo, che cosa, cioè, hai proprio l'intuizione che dietro c'è uno sguardo che ha guardato alle persone, alla vita, al proprio bambino, c'è una traccia nascosta nell'ultima canzone, proprio un lullaby, una piccola dinna nanna con questa voce che ti tiene dentro, ecco, invece tenersi dentro invece che buttarsi fuori, credo che poi questo ci serva oggi. Cristina, si può imparare? Tu che sei una cantautrice, sei donna, sei mamma, hai fatto anche degli studi, sicuramente il liceo artistico abitua, no, all'osservazione, ma secondo te questa capacità di cogliere nelle piccole cose un pezzettino di felicità si può imparare, o qualcuno di noi è quasi innata e si può solamente far crescere o recuperare? Intanto ringrazio Alberto perché ha detto delle cose bellissime. No, si deve imparare, ce lo devono insegnare, questo dovrebbe essere uno degli insegnamenti, insomma, che ci arrivano, a partire dalla famiglia, fino ad arrivare, insomma, alla vita scolastica. Ecco, credo che si possa imparare, e però deve esserci qualcuno vicino che ce lo mostra. Può anche essere un momento. Io credo di aver imparato un pochino questo, sì, dagli studi, ma anche dalla mia famiglia, da mia nonna, che ha visto due guerre, ha avuto 10 figli, insomma, ci sono degli insegnamenti importanti da cogliere, ovviamente. Allora, noi abbiamo Bruno, Noela e Franca. Chiederei ai miei ascoltatori in linea di regalarci proprio rapidamente il loro momento di trascurabile felicità. Bruno. Eccoci, l'abbiamo recuperata. Ho capito che stava andando a prendere uno dei suoi gemelli in macchina. Sì. E dove state andando? E poi mia moglie va a prendere l'altro più grande, che ha 16 anni. Sì. E alle 3 prendiamo l'aereo e andiamo a Parigi a visitare un'esposizione di auto antiche. Sì. Dopodiché già abbiamo deciso, ma spero di comprarlo, compreremo un taxi del 1941 e forse verremo da Parigi a Roma, sperando che non si venga per strada, questo taxi. Bruno, ma questo è un momentone, direi, giornate di grande felicità, di grandi viaggi. Grazie Bruno. Noela, buongiorno. Ciao, buongiorno, buona giornata a tutti da Viareggio. Oh. Allora, il mio momento di trascurabile felicità arriva tramite l'udito, perché per me ascoltare il respiro nel sonno, il respiro profondo, quello pacato delle persone che amo. E quindi, però, ora che i miei figli logicamente sono adulti, hanno la loro vita, e mi succede la stessa cosa col mio compagno. Però, siccome noi non dormiamo insieme tutte le notti, questo per fortuna, e purtroppo e per fortuna mi consente di non abituarmi. Quindi, di nuovo, mi succede spesso che la notte mi sveglio apposta per ascoltare questo respiro pacato, sapere che lui c'è, e mi dà una gioia profonda sentire la rilassatezza. e mi sento appagata, ecco. Grazie Noela. Voi. Buona giornata. Franca da Ravenna, buongiorno. Buongiorno, è stupendo fare i complimenti perché siete bravissimi. La mia felicità si scosta un po' forse da quella di tutti gli altri, perché io sono una radioamatrice e già dalle 6 del mattino aprire, accendere la radio e dire buongiorno Italia, buongiorno ai nostri connazionali nel mondo, sì, per me significa iniziare un giorno bellissimo che spruno anche gli altri, e c'è tanta gente, c'è tanta gente, i nostri amici non vedenti, ci sono tanti che hanno tantissimi problemi e tanti che forse sono anche più felici di me. Però la mia felicità è questa, girare con la mia voce nel mondo. E grazie, grazie, grazie di quelle belle, belle trasmissioni che voi ci date. E poi quell'attimo di felicità dobbiamo sempre coglierlo, perché c'è sempre tutto a casa di tutti, ma guai se non teniamo sulla guardia. Grazie Franca. Cristina, in Miracoli, un brano che c'è nel tuo CD, tu scrivi: io credo nei miracoli, che la gente può fare milioni di chilometri per potersi incontrare, per guardarsi negli occhi, per spiegare un errore. Io chiedo alla regia se ne ascoltiamo un estratto, perché a me è proprio una canzone che ha emozionato. Io credo nei miracoli, che la mente può fare milioni di chilometri senza doversi spostare, per creare una storia che prima non c'era, ed una nuova invenzione, quella che salverà l'umanità intera. Forse è proprio da qui che bisogna partire, scoprire i piccoli miracoli della quotidianità di cui ciascuno di noi può essere protagonista, mentre troppo spesso ci aspettiamo che i miracoli necessari siano sempre quelli che gli altri devono fare. Alberto, qui è un punto, eh? Ma sì, proprio scoprire una storia che prima non c'era, questo è proprio quello che fa la psicologia, che ha un nome difficile, costruttivista, cioè la realtà non è quello che è, ma ciò che tu costruisci in ogni momento con la tua idea di realtà. Quindi la stessa cosa la puoi trasformare in una cosa bellissima, in una cosa bruttissima, in una cosa in cui eri protagonista, oppure in una cosa che hai subito. Per cui credo che abbiamo uno straordinario potere sulla nostra vita, e questo è proprio il potere di trovare in ogni attimo, in ogni momento, un senso, un significato. Cristina, qual è la tua piccola momento di trascurabile felicità di oggi? Basta stare a parlare con voi. Grazie. Io vi ascolto spesso, quindi sono felice di essere in trasmissione, non lo sto dicendo così, spero che arrivi la sincerità. E poi c'è tanto da fare, ora darò da mangiare al mio piccolo, si parlava di bambini prima, è vero, loro hanno questo potere di farci riscoprire il mondo, quindi mi godrò lui in attesa del prossimo appuntamento promozionale. 800 24 00 24, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, e poi di nuovo qui. Continuate a scriverci o a chiamarci per il vostro momento di trascurabile felicità. In collaborazione con IBS sceglieremo appunto il vostro messaggio più felice per farvi ricevere a casa il libro di Francesco Piccolo, Momenti di trascurabile felicità, in Audi Editore. A tra poco. Essere e benessere. Le piccole cose che ci rendono felici, piccoli momenti che, se riusciamo a cogliere, ad assaporare, beh, ci aiutano, eh? Maurizio dalla provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno, volevo fare questo intervento, cioè secondo me la felicità è nelle piccole, nelle grandi cose, in tutto, però per poterle capire bisogna riuscire, secondo me, certo, a comprenderne il momento in cui ci cambia qualcosa. Mi spiego meglio. Noi ci adattiamo spesso sia nelle piccole sia nelle grandi cose, e riusciamo a capirle solo quando scompaiono o quando arrivano. Sì. Quindi la difficoltà nel trovare la felicità da parte di qualcuno non credo sia nell'aver tanto, nell'aver poco, ma di riuscire a capirlo, di averlo. Cioè, se io faccio sempre grandi viaggi, alla fine non mi dà più felicità neanche quello. Certo. Mentre se io riesco a estraniarmi dalla quotidianità, guardarmi dall'esterno e riuscire a capire dove sono senza che ne capto la variazione, allora secondo me riesco a percepire la felicità anche in un buon caffè. Grazie Maurizio. Cioè, dopo... Ok. Grazie. Alberto, mantenere un po' lo stupore, eh? Sì, ma credo la parte in più che dice Maurizio è bisogna essere costantemente attivi, che è un po' poi, se ci pensi, l'esercizio del diario. Quando tu scrivi un diario, riguardi da fuori quello che ti è successo. E a proposito di diario, la canzone che chiude il CD di Cristina si intitola Lettera a mano, che piacerebbe molto al nostro prossimo ospite, il professor Duccio Demetrio, è in linea con noi, il nostro esperto ufficiale, posso dire, di autonarrazione e autobiografia. Buongiorno, grazie, professore. Grazie, buongiorno a voi e a tutti. In realtà nella vita è professore di filosofia dell'educazione e della narrazione all'Università Milano Bicocca. Io l'ho presentato come un esperto di qua della nostra trasmissione di Essere Benessere, che frequenta abbastanza spesso, anche se non si dice abbastanza spesso, ma insomma in cui ci aiuta a prendere dimestichezza con l'autonarrazione. Sì, con l'autonarrazione, con la scrittura, anche con questi momenti quotidiani di cui questa mattina state parlando, che possiamo vedere come miracoli, ma che io preferisco chiamare gli interstizi della nostra giornata, della nostra quotidianità. Vede che i professori si vedono, e allora al professor Duccio Demetrio facciamo ascoltare un brevissimo estratto di Lettera a mano. Demetrio, Francesco Piccolo ci raccontava che il suo libro Momenti di trascurabile felicità è proprio nato perché lui si appuntava, poi li riportava su un file, si appuntava i momenti che non sempre di felicità, ma non solamente quelli in cui lui faceva il buono, anche un po' magari le piccole miserie. Ma l'autonarrazione, la scrittura di una lettera, quindi ci possono aiutare a fissare e soprattutto, più che a fissare, a scoprire questi momenti che spesso trascuriamo o perché non siamo capaci di vederli o perché non siamo nella predisposizione d'animo giusta. Sì, la scrittura ci aiuta sempre a riscoprire qualcosa, perché quando scriviamo aggiungiamo parole che solo il pensiero o la voce non riescono sempre a cogliere. Anche la persona meno esperta di scrittura si accorge che in una breve pagina di diario sta arricchendo quella pagina, ma anche se stessa, di qualche novità, di qualche stupore, di qualche sorpresa. E mi piaceva però anche riprendere questa canzone di Cristina, La lettera a mano, perché mi ha evocato che oggi diventa sempre più raro ricevere o scrivere lettere a mano, invece ne abbiamo un estremo bisogno. Perché sono dei messaggi che giungono all'altro oppure che lasciamo in un cassetto, dotati di una maggiore forza emotiva. Quindi vanno benissimo oggi le lettere, i diari anche scritti online, ma recuperiamo questo semplicissimo gesto di scrivere a mano anche a persone che non incontriamo più o che non abbiamo mai incontrato, per introdurre nella scrittura non solo il nostro presente, le nostre minuscole felicità o grandi infelicità talvolta, ma per immaginare un mondo diverso. In fondo la letteratura, lo diceva anche il poeta Pessoa, è l'altra nostra vita e tutti noi sogniamo di averne un'altra, e la scrittura, anche la più modesta, ci aiuta a inventarci diversi da quello che noi siamo. Cristina, tu tieni un diario, scrivi, hai di recente scritto una lettera ad una tua amica che non vedevi da tempo? Tengo, sì, ho un taccuino su cui scrivo a mano gli appunti che penso possano magari servire per le canzoni, ma anche solo come osservazione, quello che dicevate prima, è molto interessante. Quando si scrive si scoprono veramente nuovi orizzonti, almeno questo è quello che accade a me. Poi sono particolarmente legata alla scrittura a mano perché ho una suocera fantastica, le due parole insieme non sembrano però lei è una ogni tanto capita perché sì, è fantastica perché è fantastica come persona, ma in questo caso la cito perché è grafologa, è una grafologa molto brava, mm-hmm. e mi ha insegnato un pochino anche quanto importante sia scrivere a mano, proprio a livello anche di sfogo psicologico, insomma tanti tanti risvolti, e trovo che sia comunque un gesto dotato di un calore che qualsiasi altra forma, insomma, legata al computer o non abbia assolutamente. Quindi possiamo dire, ci lasciamo con un impegno, scriviamoci una lettera? Magari. Scriviamoci una lettera, professor Demetrio. Sì, scriviamoci lettere, oppure lasciamo delle lettere, così come faccio nei miei camminamenti anche cittadini, ma anche nei boschi, nelle foreste, lasciamo delle lettere, dei messaggi così come indecifrabili nella radice di un albero, su un incavo di un piccolo avvallamento, lasciamo un bigliettino, lasciamo biglietti. Se può sembrare una cosa infantile, ingenua, ma è anche una manifestazione delle nostre piccole felicità. Sì, perché a volte producono proprio un tuffo al cuore. Noi da anni a casa teniamo un librettino e poi chi vuole di noi durante la giornata scrive una frase, oppure tante volte le mie figlie mi scrivono: mamma, non ti ho trovato, non torno, non torno a cena. Però insomma abbiamo come una specie di diario di famiglia. L'avevo raccontata ad Alberto e penso che adesso anche lui dovrà fare un grande quaderno, perché avendo 4 figli, Alberto, un quadernone. Sì, e riprendo proprio una frase che abbiamo sentito di Cristina: frasi annodate a parole orchidee, carezze disegnate come fossero vere, cioè tutti i 5 sensi in 8 parole, solo la scrittura, proprio con l'inchiostro, la penna, l'incisione sul foglio, l'evocazione del profumo di un fiore. Ecco, c'è una tale ricchezza che perché sprecarla? Allora, intanto è arrivato il tempo di assegnare il nostro consiglio di lettura, momenti di trascurabile felicità. Io ho lasciato il compito ad Alberto, anche se io ho letto adesso un messaggio di Vittorio che mi piace molto, che è molto semplice, però ci dà il senso: la felicità è la vita che ti sveglia tutte le mattine. Alberto, però ti avevo dato l'incarico di scegliere il messaggio più significativo, quale hai scelto? Ma io devo dire che Maurizio, l'ultimo ascoltatore che ci ha chiamato, ha dato veramente un messaggio che era pieno di filosofia, di vita, di ricco, ecco, per cui direi che... Intanto, allora, guardiamoci intorno, cerchiamo di cogliere proprio questi momenti che scappano via, che però possono essere davvero intensi, e poi scriviamoceli, mandiamoci delle lettere, facciamoci un diario collettivo. Grazie a Cristina Donà per essere stata con noi, al professor Duccio Demetri e ad Alberto Pellai. Io devo salutarvi, a lunedì, no, stavo dicendo a domani, a lunedì, buona giornata.